Con Max Maltoni per parlare della 18ª edizione del Trieste Science Plus Fiction Festival dal 30 ottobre al 4 novembre. Max, ben trovato. Bentrovati a voi e grazie per questo invito. Per chi non conoscesse il festival, lo presentiamo? Ma in maniera molto, diciamo, schematica e veloce, è un festival di fantascienza, come appunto dice il nome, Trieste Science Plus Fiction Festival. È nato nel 2000, ma in realtà è nato seguendo, riprendendo, diciamo, la tradizione del primo festival internazionale del film di fantascienza che c'è stato a Trieste tra il 1963 e il 1982, che è stato anche uno dei primi in Europa esplicitamente dedicato al cinema di genere fantastico. Per cui noi con grande piacere abbiamo raccolto questo testimone e cerchiamo di portare avanti questa tradizione di Trieste, città della scienza e della fantascienza, con il nostro festival. Com'è cambiato nel corso degli anni, essendo la 18ª edizione? Cosa ha mantenuto, cosa ha sviluppato, cosa ha modificato? Ma io conosco il festival, diciamo, delle prime edizioni perché lo frequentavo, sono qui a lavorare con loro da 4 anni. E ti posso dire che il festival sta vivendo un continuo processo di crescita che lo ha portato nel tempo ad aumentare il numero dei film, il numero delle anteprime, il numero degli ospiti, tenendo anche il numero delle attività, perché è un festival che possiamo definire multidisciplinare, le cui attività non si fermano alle proiezioni nella sala cinematografica, però mantenendo sempre fede alla sua identità, che è appunto quella attorno a cui ha costruito anche la sua fan base. Abbiamo una fan base molto nutrita e anche molto esigente, che è appassionata come noi di fantascienza. Quindi il festival cresce, ma non diventa un festival, diciamo, generalista. Rimane un festival di fantascienza e siamo assolutamente contenti così. Descrivici allora questa edizione, come sarà strutturata? Allora, questa edizione è strutturata sulla falsariga delle edizioni degli ultimi anni, in cui appunto relativamente al processo di crescita di cui parlavamo prima, il festival si è consolidato con un numero di proiezioni, i suoi concorsi, che sono tre, e quindi io partirei da questo, insomma. Il festival innanzitutto si svolge per il secondo anno al Politeama Rossetti, che è un teatro storico della città di Trieste, dove si può godere dei film sotto una volta stellata assolutamente spettacolare, che fa, no, non perché è all'aperto, ma c'è questo soffitto incredibile con le stelle che si illuminano quando si spengono le luci, cioè è perfetto per fare dei film di fantascienza. I film sono divisi in varie sezioni, abbiamo il concorso per il miglior lungometraggio, cortometraggio europeo, che è in collaborazione con la Federazione Europea dei Festival di Cinema del Fantastico, di cui noi siamo parte dal 2005, concorrono per il Méliès d'Argento. Poi abbiamo il nostro concorso internazionale, che è riservato a opere prime, seconde e terze, a riviste emergenti, e la giuria di questo concorso sarà capitanata dallo scrittore Richard K. Morgan, che è un grande scrittore di fantascienza, specialmente cyberpunk e distopica, noto per aver dato alle stampe Altered Carbon, da cui poi Netflix ha sviluppato una serie di grande successo. Ma oltre ai concorsi abbiamo una sezione tradizionale, che è quella della futurologia, documentari a sfondo scientifico seguiti da incontri con esperti scienziati, che sono numerosi qui nella nostra città, con tanti enti e istituzioni di ricerca. Non fosse altro che nel 2020 Trieste ospiterà ESOF, e quindi sarà la capitale europea della scienza. Però abbiamo anche tanti film fuori concorso, tante, tra cui i film della mezzanotte, e anche una sezione molto nutrita di classici, che quest'anno ci danno l'occasione di festeggiare tanti, tanti appuntamenti. e ricorrenze. E naturalmente un'altra sezione tradizionale del festival è quella di Spazio Italia, dedicata al cinema di genere fantastico italiano con i corti e con i lunghi. Nel complesso, quante sono le opere presentate rispetto anche a tutte le sezioni? Dunque, siamo, se non ho fatto male i conti, dovrebbero essere 39 lungometraggi e 48 corti. Quindi Ok. è un bel programma in rappresentanza di 34 paesi del mondo, quindi anche il pianeta è ben rappresentato, ecco. E andando sempre nel complesso, ti chiedo la fantascienza che ospitate, che territori sta battendo oggi? Sai, è una domanda un po' complessa perché i territori sono sempre i più vari. Quello che stiamo notando è che nel corso del tempo i film stanno andando sempre di più verso un futuro che è drammaticamente vicino e trattano quindi di temi legati all'intelligenza artificiale e alla genetica, che sono due, diciamo, temi che anche la scienza sta parallelamente sviluppando, e ne parleremo diffusamente nel corso del festival, sia guardando i film sullo schermo che anche agli incontri di futurologia al mattino. In chiusura ci lasci riferimenti web per seguire tutto? Allora, i riferimenti web, il sito www.sciencefictionfestival.org, trovate tutte le indicazioni, i biglietti, accrediti, il programma che vorrei segnalare verrà aperto da una prestigiosa anteprima in collaborazione con la Universal. Presenteremo First Man del premio Oscar Damien Chazelle e avremo un ospite veramente speciale sul palco con noi a presentare questo film, che è un biopic dedicato a Neil Armstrong e all'impresa che ha portato Neil Armstrong sulla Luna, che sarà l'astronauta Umberto Guidoni. Allora ricordiamo la 18ª edizione del Festival Trieste Science Plus Fiction dal 30 ottobre al 4 novembre. Un saluto e un ringraziamento a Max Maltoni. Max, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crepi il lupo, lunga vita e prosperità. Ciao. Ciao, ciao.